Dunque c'è questa favola dove i personaggi principali sono, come al solito, la strega, la fanciulla e il principe. Volevo che prima di cominciare col racconto, associassimo a questi tre personaggi e queste tre parole, ritmo, melodia e armonia, però possiamo anche sceglierle insieme prima di No, ci sta, ci usiamo partire. queste. Però la strega, come la chiamiamo? Ritma, ritmica. Ritmica. La ritmica. Sì. La signora ritmica. Anzi, Ok. Passeggiava con i aritmica. suoi tre cani. Senza ritmo, poi dopo un po' quando si infervora diventa. Quindi vediamo dentro questo Il frullatore della. principe melodio Melò. e la principessa Armonia. armonia. Sai che mi è venuto in mente stanotte? Oppure ieri notte? Che l'unico modo per fare l'amleto, lo sai qual è? È fare altra roba. Sono i capelli di Armonia perché lei la sera glieli taglia e poi li incolla e gli fa una bella treccina e con quella si cala giù dalla finestra la strega. Cos'è? Sono uno spoiler sta cosa qua. Cioè? Cioè che spiega in anticipo la fine. Questa rapparonzolità. Cioè, il modo per riflettere veramente su queste cose è darle per, cioè, è andare oltre. Raggiunge il momento della nascita, nasce la figlia, oh che bello bambino, eccetera, eccetera, però appare subito ritmica, per fidare, e si porta, e dice, ormai questa bimba è mia e se la porta via. Questa Questa. bimba è mia e me la porto via. Ovviamente questa bimba. La ritmica porta Armonica in un'altissima torre, la chiude in La cima, chiude. una torre senza scale, in mezzo alla foresta, e la tiene sempre rinchiusa lì, e lì la ragazza cresce e diventa grande. La strega barra drago sarebbe la figura paterna, no? Alla fine la figliola Armonia, questa ragazza, prende un cesto di fiori E va a trovare la strega. e dice, ma insomma, meditando in questo campo, io sono stata prigioniera, adesso gli vado a chiedere perché. Questa fanciulla diventa molto brava nel cantare, anche perché è uno dei suoi passatempi preferiti. Sai, sente gli uccelli, sai, là sulla torre non è che ci sia tanto da fare, no? Quindi beh, diventa bravissima a cucire queste storie qua, però tra l'altro canta, e canta molto bene, ha una voce bellissima, che quando c'ha voglia si mette a cantare. E questa voce si espande, si allunga, si insinua per la foresta. Sì. Un giorno, un bel giorno, il principe Melodio. Il principe passa tutta questa vicenda desiderando di uccidere il drago, ma Non lo non c'è. lo può fare fuori. È impossibile. Perché non c'è il drago. Capito? Perché non No, esiste. no, il drago c'è. Qui si compenetra con Sennò Chisciotta. che favola è, Però scusa? può essere che la strega si trasforma Perché quando il ritmo cresce l'armonia si banalizza? Grazie. con parole tue. Sì, già siamo all'esegesi. Non ce l'ho le parole mie. Come non ce l'ho? Dille con le parole altrui. Sono perso. Dai, prova a dircelo. Mi sono perso con l'amleto, mi sono perso. Insomma, la melodia accovacciata nei rovi vede che il ritmo arriva, chiede ad Armonia di lanciare giù i suoi lunghi capelli dalla torre, questa lo fa, il ritmo si arrampica in cima ai capelli, arriva in cima alla torre, entra nella finestra, gli tirano i capelli. La stessa cosa lo fa quando la strega, il ritmo scende. Giù i capelli, giù il ritmo, via il ritmo, rimane l'armonia, tira sui capelli. La melodia che vede tutto questo, impara come si fa, appena il ritmo non ci sta più, si avvicina alla torre, dice armonia, armonia, gettami giù i tuoi capelli. Arrivano i capelli di armonia, la melodia li prende, si arrampica su, e arriva in cima alla torre. Vabbè, la soluzione sarebbe molto semplice. C'è? A livello scientifico. C'è? Tagliano i capelli, li legano da una parte a un letto. Sì. Li usano per scivolare. Solo che lei è troppo vanitosa. Quindi Armonia è troppo vanitosa. Non si vuole tagliare questi capelli, perché poi rimane senza capelli e lui forse non lo amerà più. E quindi se li vuole tenere. L'armonia senza capelli è proprio bella. Giustamente l'armonia senza una chitarra, senza le corde, cioè i suoi capelli. Cioè, con una nota sola, no? Non funziona, deve averci sei minimo. E se il ritmo avesse una scienza che melodia e armonia non hanno insieme? Malaugurato giorno, con ritmo su che sta parlando con armonia, ad armonia gli dice sai ritmo, però tu sei più pesante di melodia quando si attacca ai miei capelli, quindi lo tiro su. Allora il ritmo hai dato della grassa? Una grassa risata, si arrabbia e fa come dicevi tu, taglia i capelli alla fanciulla armonia. Glieli taglia e poi volando via la porta e l'abbandona in una valle lontanissima. Poi si mette al suo posto nella torre. Si mette i capelli di armonia in testa. No, li lega una... Li lega un po' a un letto. Sì, al termosifone. Al termosifone. Dai. E aspetta che arrivi la visita di melodia. Che per quanto piccolo comunque ha sentiamo, una sentiamo. Alla fine arriva forte braccio. Che fa fuori tutti alla fine. Allora lei però l'armonia. Cerca la strada per ritornare verso la torre, perché si vede da dove la strega l'ha lasciata. Lei la vede la punta della torre. Dice? Sì. E allora piano piano anche lei strappata, stracciata, cercando la sua strada. Piano, in tutti questi rovi, in tutta questa vallata, dare spazio anche alla strega, cioè anche la strega deve avere, cioè non è la strega che deve cambiare, crolla tutto il dramma se non c'è la strega. La strega deve restare strega e lei fa i bassi e bisogna accoglierla, quindi bisogna portarle i fiori anche alla strega. Però c'è un'altra cosa da dire fondamentale, che andiamo avanti. Armonia, gettami giù i tuoi capelli d'oro. Al che ritmo sopra gli getta giù la treccia e annodata al termosifone. Arrivano giù i capelli e Melodio tutto baldanzoso si aggrappa e sale su. Quando arriva sul davanzale si accorge che qualcosa non va e la strega e il ritmo si fa una grande risata. Ecco, vedi, tu aspettavi, volevi incontrare la tua spasimata, quella sgualdrina, quella sgualdrina Loblof, l'ho sistemata io, esatto, nell'orto di patate, laggiù nella valle, l'ho portata laggiù e tu non la potrai più raggiungere, esatto, ma... l'ho nascosta bene, ti la potrai cercare per mille miglia e per tutto il giro del mondo, non troverai assolutamente niente. Però non contenta di questo bel discorsetto, lo spinge anche giù. E gli fa fare un voletto. E quello si pianta. Un dozzo piccante. Si pianta giù nei rovi e non si fa granché, però diventa cieco. Sia nella musica classica che nella musica, diciamo, improvvisata, non si prendono contemporaneamente ogni variante possibile, non si prendono, cioè all'interno della stessa performance uno dovrebbe poter scegliere contemporaneamente tutte le varianti possibili, capito? Vabbè, è quella la cosa. Cosa? È utopico, insomma. No, no. E allora la strega si mette dei bei tacchetti sia sui piedi che sulle mani e si trasforma in una giovane donna che fa un sacco di casino con quattro piedi. Con quattro, ma va? Sì, bella sta storia. E a quel punto il principe, a quel punto il principe è pure un pochino colpito da questa strega che è diventata così quadrupede, interessante, giovane, anche un pochino povacca, non povacca, ma insomma c'è pure qualcosa di più trasgressivo di questo sdilinguimento totale. Il principe soffre, di questa di che canta bene, sì. Il principe soffre. Però alla fine noi continuiamo a cercare di leggere anche la cosa. Significherebbe che la melodia a un certo punto scopre l'armonia? Ah, quello... Potrebbe essere. Quello lo... Potrebbe essere. Ah. Ma non si può prescindere dal ritmo. Può essere un mondo senza streghe? No, è impossibile. Anzi, si fonda su quella cosa lì, direi. Il fatto che la strega, in che ritmo abbia preso l'armonia e l'abbia inchiavata là sopra, permettendo a questa di imparare a cantare e di affascinare melodia, forse se non l'avesse fatto il ritmo, non... Certo. Non sarebbe avvenuto nulla, probabilmente. Come finisce la favola? È che loro due si muoiono tutti. No, non muore nessuno in sta favola, anche per quello l'ho scelta. Nel senso che il ritmo va per conto, la strega va per conto suo. E gli altri due si ritrovano, si sposano felici e contenti. Non c'è fotografia. Non c'è fotografia. Però forse è una noia.